qui lo dici e qui non neghi questo posto in cima al mondo che ci siamo ritagliati camminando fianco a fianco, ma fianco a fianco non è abbastanza, e abbastanza è stato poco quel che hai speso come un gioco, sì dal caso che valeva una vita forse ordinaria, se vuoi banale te lo concedo, però ti chiedo di ritornare da me. Forse da domani stringeremo altre mani, però adesso torna a stringere le mie che ti hanno stretto. Forse dopo tutto, insieme come un frutto, resta ancora una scintilla che noi non abbiamo spento. Quello dici e quello neghi, questo assurdo contrapasso di scoprirci così legati proprio adesso da lontano. Da lontano e da lontano tutto è diverso, tutto ha una nuova prospettiva. Ti sento viva così vicina a me. Forse da domani cambieremo i nostri piani, però oggi fammi credere che esisto ancora io. Forse non è tardi per non fare dei ricordi una sterile parata di rimpianti e rimorsi. Domani ci sarà un altro.